al carcere custodi, qui si conduca al pace. Beh, cerchi a morta mano una via di salvarlo. Una ragione che io possa dubitar del suo delitto. Unisci, io te ne prego, le tue cure alle mie. E vana la tua e la mia pietà, la tua potenza con un cuore di sprezza. Ma innocente si chiama, i labbri suoi non sono usi a mentir. Io m'allontano, in libertà seco ragiona. Osserva, esamina il suo cor, trova se puoi un'ombra di difesa. Accordami, accorda insieme la difesa del figlio, la pace del tuo re, l'onore del trono. Ingannami se puoi, che io ti perdono. Sia questo il tuo cenno, primiero, trasparente, tutto me. seguimi, andiamo! Custode! O la custode, andatevi in pace, al porto del vino, guidatevi del nuovo! Ardo di stegno! Ascolto indegno. tuoi debili affetti vincer ta mano, un temerario figlio s'abbandoni al suo fato. Che fai, che pensi, il risoluto, il lento, signore, così ti stai? Mi capisce quale sventura è la mia, ricusa il figlio e trone libertà. Che dici? In van finora con lui contesi. Libero forzo, all'incarce di corpo. Il tempo è stesso che perderemo, in superar la fede e il valor dei custodi, ha già bastante restava di preparar difese. Che dir? Tu 40 sereste prima si spegne, e poi si sacerdoti. Ma rimane in ostaggio la vita d'un mio figlio. Il caso estremo, al più pronto rimedio risolverne farà. Se ne disponi come più puoi. E non tradirmi, amico. Io tradirti? Oh, signore, che mai dicesti? Tanto ingrato mi credi. Io mi rompo in tutti i miei vostri principi. Hai la tua mano, ne c'è quanto possiedo. Hai i primi gradi del banco popolare, tu mi traesti. Io tradirti, oh, signor. Che mai dicesti? Poco mi capisce quanti io feci per te. Vedrai se t'amo, se marri del destino. So perseguire gli affetti tuoi, non li condanno e penso. Eccola, a mio comando l'amor suo t'assicuri, e noi congiungo con più saldi legati. Poco oh, contento, figlia. E questo il tuo sposo? Che sento? E ti partendo a fare di stringere me lei quando il germano... Non più! Vuoi la mamma, vuoi toggiovarti? Il sacrificio è grande, signore, meglio rifletti, io so! E tutte folle se mi contrasti! Ecco il tuo sposo! Io così voglio! E basti! Thank you. me gabbise, io mi lusingo al fin dell'amor tuo. Posso la prova sperare a mio favore. Ecco, per obbedire fine, pur io temo le ripugnanze tue. Questo temore ti reghi un poco manco. Se tu mani questi menadi sciogli, io sì, salvarmi dal genitor, così potrai dal via. Tu obbederei, ma porremi, provami così, porre il voglio severo. Non parlo da scherzo, e non te credo, che vuoi così farmi porre, io me lo vedo. Dunque il mio pianto, mangiovo, queste preghiere mie, son sparse venti, ebbene, al padre un medico. Ma senti, senti, non lusingarti mai, ch'io voglio amarti. Non lo chiedo, non lo chiedo, se chiedo. Io mi contento nel cadere che mi ascolto, e per vendetto, se ti posso odiarmi, odiami pur, che io non saprò guardarmi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, lo sole punisce a danni miei. Mondane, assenti! Non far restarsi viva! Ove t'affretti? Ad arrivato il segno! Io tua seguace sarò, se giova l'infelice arbace! L'interesse è distinto, tu salvo i brami, ed io lo voglio estinto! E un amante d'arpace parla così! Parla così, se via, una figlia di Serse! Il mio germano, o non ha colpa, o per tua colpa il reo, perché troppo t'amò! Questo è il maggiore dei falli suoi, col suo morir del Gio, giustificar me stessa! E non basta punirlo della legge e rigor che a lui sovrasta senza gli impulsi tuoi! No, che non basta! Io tenero nata Serse, e la tenera mi sta! Basso illecita il colpo, accusalo spietata, riducilo a morir, però misura prima la tua costanza. Oh, barbara, se mio, io che ti feci mai, perché ritorni in quest'idea, che il mio coraggio atterra, nei miei pensieri a rinnovar la guerra. Thank you. Pace mi capise, arta sei, sei il genitore, tutti son miei nemici. Ognun m'assale in alcuna dei corte nella parte, mentre ad uno m'oppongo, io resto agli altri senza difesa esposta. Ed il contrasto solo di fronte a sostener non basto. Esperta mano teme di questo avvicinarsi al freno. Mi orecchi dalla gara e mandare a seguire dell'ingresso. Odei, vengano, io vedo qual diversa cagione entrambe affretta. Porto serse, no, signore vendetta, d'un reo che è già morto. E la vita chiedo d'un innocente. Ognun che vedi, forte e severo, il sacrificio aspetta. Serse pietà, signor vendetta! Sorgete, oddio, sorgete! Il vostro affanno quanto minor del mio! E vana la tua e la mia pietà! La vostra vendetta non pura o disprezza! E vuol ridurmi l'ingrato a condannarlo? Condannarlo? Ah, crudel! Dunque vedrossi sotto l'infame scure di Semira il Germano! Semira, a torto m'accusi di crudel! Che far possio se difesa non ha? Tu che faresti? Che farebbe Artabano? O la custodi, Arbace a me seguidi, il padre stesso sia giudice del figlio. Egli l'ascolti e l'assolva se può, tutta in sua mano la mia depongo autorità reale. Come? Ah, oh, signor Falcimento! Degna di tua virtù! Di questa scelta che si ne fa? Che si può dire? Parlate! se v'è ragion che a dubitar vi muova. Il silenzio di un giorno ascenda poco e col cervello poi me ascolti affettiato per aver freno povero cuore non palpitarmi in seno quanto in loco la marcia dunque salio e di mia rea fortuna l'ingiustizia mia re tutta saluta mio re chiamami amico finch'io possa dubitar del tuo fallo esser lo voglio e perché si bel nome in un giudice colpa ad Artabano il giudizio è commesso padre a lui che pensi a mi riforse la mia costanza e non ridesca il padre nell'arti quell'uomo ripensando qual io sono qual tu sei come potesti farti giudice mia come conservi cose intrepe del volto e tu ti senti l'animo lacerar e i moti interni che ho provo in me tu mi cercar non devi misero genitor qui non si vende, i vostri ad ascoltar privati affatti, ormai ci si difenda, o si condanni. Quanto rigore! Dunque alle mie richieste risponder reo, tu compari Cervace, di serse l'uccisor, ne sei convinto? Ecco le prove, un temerario vuole, uno segno ribelle. Ti sferro! E se ne è il luogo, il tempo, il mio timore la fuga, so che la colpa mia fanno impotente, e pur venendo me, sono innocente. Il vostro, se vuoi, date lo sdegno dell'offesa mandare. Egli ugualmente il reo, se parla o se pace, o che se pensa il giudice che fa. Questo è quel padre che vendicar dove è un doppio oltraggio. Vivo e morto, padre! Oh, ma coraggio! Principe, sa il tuo sdegno sprone la mia virtù. Resti alle perse nel ricordar Tavano un grande esempio di giustizia e pietà non visto ancora. Io condanno il mio figlio. Pace mora! Oddio! Ostendi, amico, il decreto fatale! Segnato il foglio, ho compito il dovere! Barbaro vanto! Padre inumano! Di giudice severo adempito le parti! Si conceda agli affetti d'un padre uno scudo, signore! Thank you. Per questo dolce abisso, per questo estremo attivo, se van madre vero, vita amabile, se van madre mia, Oh, d'armace io comincio a provar che sia la morte. Aprete le mie gambe e comandare soddisfatto il mio sveglio. Oh, scellerato, fuggi dagli occhi miei, fuggi la luce delle stelle e del sol. C'è la tendeglia nelle più cupe cieche viscere della terra. Dunque la mia virtù. Noce umano, di qual virtù, di qual virtù ti vanti? Non sei quella stessa che finor mi irritò. Son quella e son degna di lode. E se dovesse armaci giudicarsi di nuovo, io la sua morte di nuovo chiederei. Dovevo mandare un padre a mendicar, ma tu dovevi del giudice in rigor porre in oblio. Questo era il tuo dovere, questo era il mio. Che feci mai, oh dispietato padre? parl funesto agli occhi miei. Vado i singhiozzi dell'innocente vittima. E ferma, ferma, carnefice oscure. Oh!